Ragazze di Milano, ragazze malandrine, con le vostre sottane che coprono le trame delle vostre trine, le trine della nonna, color malinconia, ragazze di Milano che somigliate tutte ad una zia, la zia degli anni 30, coi suoi capelli corti, i suoi vestiti neri, le sue cravatte ed i suoi misteri, con le fotografie alle pareti, quasi sempre in nero e bianco, ed il mazzo delle carte, ed il manifesto d'arte, con la luce sul comodino, ed il libro aperto al segno, il tubetto di aspirina e la porta aperta ai sogni. Ragazze di Milano, ragazze con turbanti, con mille scatoline per le reliquie dei vostri amanti, la sciarpa la mattina verso la biblioteca, e l'R per la scala, e i pantaloni neri per la discoteca. La macchina di notte è farvi accompagnare, e stare sotto casa per fare conti, per raccontare dell'ultimo arrivato, e finalmente, finalmente poi di quello sguardo e di un gesto fatto sempre un po' in anticipo, un po' in ritardo, e poi salire le scale con dentro ancora il ritmo e l'ultima melodia, quattro giri della chiave e un istante di malinconia, accendere la luce, guardarsi nello specchio, guardarsi molto a lungo, fare le facce, immaginarsi vecchia. Telefono che suona, ora di confidarsi. Le notti di Milano sono un intreccio di voci basse, e da un momento all'altro arriva lo straniero, prepara il tuo sorriso ed aspetta i passi sulla ringhiera, e il letto ad una piazza diventa grande come il paradiso, e l'angelo riparte gentilmente con la radio che si spenge, porta che si chiude, sigaretta che si accende. Ragazze di Milano, ragazze scapigliate con le vostre nottate di bar, di musica, disperate, la vostra cortesia, la vostra sfrontatezza e la vostra innocenza, l'intelligenza, la tenerezza. Ragazze di Milano, signore di domani, siamo qui che vi guardiamo, siamo